Abbiamo come ospite Agostino Ferrente, regista dell'Orchestra di Piazza Vittorio. Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Bene, molto bene. Senti, questo primo weekend? Questo primo weekend ci ha dato un sacco di soddisfazioni, anche se abbiamo fatto una scelta eroica, quella di chiamare il film documentario, perché era un modo per dimostrare che anche in Italia i documentari possono andare al cinema. Ma questa è una scelta che ci stanno facendo un po' sudare, perché normalmente il pubblico pensa, quando parli di documentari, a Quark, all'accoppiamento degli ornitorinchi. Quindi in realtà un io ho fatto un documentario sulle persone, non sugli animali, nulla togliendo alla, insomma, la legittimità dei film naturalistici o certo. documentari d'arte. In realtà la gente, quando poi vede questo film, che ricordo su Roma è visibile al Greenwich, al Quattro Fontane, esce dicendo: ma pensavo fosse un documentario, invece un film. Diciamo, in Francia non l'avrebbero detta sta cosa, in Italia sì, ma lo capisco, non è colpa del pubblico, è colpa della televisione italiana, è colpa del ministero, è colpa di chi non rende giustizia a questo tipo di lavoro. Forma, sì, di fatto è un film a tutti gli effetti. Se lo vedessero in Australia non sapessero che è una storia vera interpretata dalle persone che realmente l'hanno vissuta, penserebbero che si tratta di una storia scritta da uno sceneggiatore, tra l'altro con un lieto fine tale per cui magari potrebbero dirgli che è inverosimile. In realtà invece noi ce l'abbiamo, perché è una storia vera, è successa davvero, e questo è il valore aggiunto. Comunque è un film a tutti gli effetti, la gente dice finalmente un film sull'immigrazione in cui si ride, in cui si sorride, perché poi l'ho voluta trattare in maniera anche ironica, per allontanarmi dal facile cliché dell'immigrato, insomma, morto di fame, che ahimè, cioè, è una realtà pure quella, il tema dell'immigrazione, gli sbarchi, lo sfruttamento del lavoro. Ma noi abbiamo il privilegio di raccontare una storia di immigrati che, grazie al loro talento e grazie alla disponibilità di un gruppo di italiani che hanno voluto credere imprenditorialmente in questa cosa, sono riusciti a creare una piccola azienda. Quindi non sono dipendenti, sono essi stessi imprenditori, e sono 20 persone, ci manteniamo da soli, e non abbiamo mai avuto finanziamenti sull'orchestra da parte delle istituzioni o delle case discografiche. Anche se sembra che, insomma, ultimamente un po' di interesse l'ha suscitato. Ma guarda, sì, bisogna vedere poi come si traduce. Sì, al di là delle telefonate di complimenti, delle pacche sulle spalle, insomma, voglio dire, adesso anche le critiche, siamo stati veramente molto fortunati, sono state molto positive, no? Ma chiaramente molto incentrate poi sul contenuto, sul fatto che si tratta di una piccola utopia che si è realizzata, musicisti provenienti da paesi, religioni, lingue diverse che comunicano. Insomma, queste sono tutte cose vere che viviamo sulle nostre spalle. Io non sono solo il regista dell'orchestra come film, ma insomma sono tra i fondatori e sono il presidente dell'associazione che la produce, per cui sistematicamente facciamo i conti, insomma, con la situazione economica, e manteniamo 20 famiglie, e siamo una piccola associazione culturale che si è creata da sola. Quindi questi aspetti, diciamo, contenutistici ce li abbiamo ben presenti. Però che succede? Che magari uno spettatore dice, un lettore del giornale dice: sì, vabbè, è un film, che ne so, dove si parla di immigrazione, antirazzismo, pacifismo, io già lo sono tutte queste cose, che bisogna cercare a vederlo. Invece è un film autonomo, con una struttura narrativa filmica e cinematografica a tutti gli effetti, non ci sono interviste, non è un concerto ripreso. Che uno dice: vado a vedermi il concerto dal vivo, chi se ne frega di pagare 7 euro per andare al cinema. Sono piccoli, come devo dire, ostacoli dovuti anni e anni di sonno da parte di chi avrebbe dovuto diffondere anche il cinema dal vero in Italia, e infatti molti miei colleghi vanno a vivere in Francia. Però ti dico, la gente che esce, basta vedere il blog del sito www.orchestradipiazzavittorio.it, ci sono le reazioni del pubblico che rimane spiazzato e dice sempre: mazza, cioè, pensavo a un documentario, le interviste, ero venuto per curiosità, ma invece si ride, si piange, ci si commuove. Cioè, è una storia vera, è un film a tutti gli effetti. Senti, Agostino, è un progetto tenace, perché ha avuto la durata di 5 anni la lavorazione. Sì, è un film diario che io definisco un film dilettantesco, nel senso che non solo è stato girato con mezzi di fortuna autoprodotti, ma perché nessun produttore in Italia potrebbe pagarti, finanziarti il lavoro di un fonico, di un operatore, di un montatore per così lungo tempo. Non è che ci ho messo 5 anni a fare questo film, è che ho scelto artisticamente di raccontare una vicenda in che si sviluppa reali. Nell'arco di 5 anni, certo. Quindi ho dovuto aspettare che realmente passassero questi 5 anni, nel senso che l'orchestra ha avuto avvicendarsi una 30 di musicisti. La storia dell'Apollo, che come dire, è una vicenda parallela dell'Apollo 11 che ha salvato il cinema Apollo, che sta diventando un bingo, col sogno di trasformarlo in un laboratorio di cinema e musica aperto alle comunità straniere e che attualmente ha sede al Piccolo Apollo, all'Istituto Galilei di Roma. Mm-hmm. Noi abbiamo chiamato Piccolo Apollo per scaramanzia e lì facciamo le nostre rassegne di cinema, di musica, abbiamo fatto di recente. A proposito, ecco, com'è andata la rassegna di Bollywood? Ma è andata meravigliosamente bene, c'erano 500 persone, c'era un doppio spettacolo, uno sullo schermo, a vedere Superman indiano che è incassato più del Superman americano, e uno tra il pubblico a vedere gli indianini che facevano il tifo come noi quando ci sono le partite di calcio. No, è andato benissimo e chiaramente noi che parallelamente abbiamo fatto questa attività con Apollo 11, sempre, non solo, senza l'aiuto delle istituzioni, talvolta, come dire, nonostante le istituzioni, perché poi si sa, insomma, quando anche la cultura a sua volta è un mercato, per cui ti dicono che droghi il mercato perché fa gli eventi e fa entrare gratis immigrati, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo far pagare qui 20 euro gli immigrati? Cioè, non, certo, ho capito, certo. Cioè, c'è un po' sta visione imprenditoriale, soprattutto a sinistra, cioè, sono queste contraddizioni. E il film racconta 5 anni, però chiaramente puntando l'attenzione soprattutto sui musicisti, sulle musiche, si scopre come sono nati molti repertori, per me sono dei piccoli classici d'orchestra. Sentiamo il pubblico affezionato che canta le canzoni indiane, arabe, che io non lo saprei fare, e invece sento gli ultras che lo fanno. Mi ha colpito piacevolmente la dedica a Dino Frisullo, che con Radio Onda Rossa ha avuto un rapporto molto intenso. Ma vedi, Dino è stato uno dei primi a credere in questo progetto, per ovvie ragioni, una persona che ha dedicato la vita alla difesa dei diritti degli immigrati. Poi è scomparso prima della fine delle lavorazioni, e il film chiude con questa dedica, mentre ci sono le sue parole di quando ha presentato il nostro progetto nella prima manifestazione contro la legge Bossi-Fini, e lui dice che un giorno ci sarà uno sciopero di tutti gli immigrati italiani, e quando ci sarà lo sciopero l'Italia si accorgerà che si fermerà l'agricoltura del sud, che si fermeranno le fabbriche del nord, che i vecchi rimarranno soli perché non ci saranno i badanti, che le persone a casa non avranno più le donne di servizio. Io potrei aggiungere che si fermerà pure lo sport italiano, visto che ormai molti atleti sono stranieri, e nel nostro piccolo si fermerà pure l'orchestra di Piazza Vittoria. Bene Agostino, in bocca al lupo e ci sentiamo presto per nuovi progetti. Sì, assolutamente, io spero che resista questo progetto, sì. Perché se da una parte mi fa un po' pena il cliché del regista che si lamenta che la distribuzione non lo aiuta a livello promozionale, è anche vero che un biglietto di un film, sia se è costato 50.000 euro come il mio e 5 anni di lavoro e le persone hanno lavorato gratis, e sia se c'ha 20 milioni di euro di budget e altrettanto di promozione, il biglietto al cinema è sempre quello, è 7, certo. euro. Quindi è un po' una lotta a pari, come andare a fare una corsa dei 100 metri, io a piedi e gli altri col motorino. E quindi che succede? Che c'è una lotta per la sopravvivenza in sala assolutamente dura e impari, perché vedi film che sono strapubblicizzati, e l'unica nostra forza, ripeto, l'unica è il passaparola, cioè la gente che vede il film ci manda messaggi sul blog, ci scrive, se siamo presenti ci viene a cercare e dice: ragazzi, grazie, questo film ci ha fatto bene, ci ha fatto ridere, ci ha fatto commuovere. Tu l'hai visto e mi hai detto che hai provato le stesse sensazioni. Sì, sì, sì. L'unica nostra arma è il passaparola, perché, certo. chiedo a chi l'ha visto di mandare più gente possibile, chi non l'ha visto di andarlo a vedere. Senti, verrà pubblicato, insomma, anche in DVD? Io sì, spero il più tardi possibile, perché non so quanti addetti ai lavori ci siano all'ascolto, ma normalmente in alcuni casi le distribuzioni investono per andare nelle sale solo ed esclusivamente per poter accedere ai finanziamenti statali. Mm-hmm. E fare il botto col DVD, insomma, che è una cosa che costa meno rispetto alle sale, dove devi almeno mettere i flani, pagare i tamburini, certo. sui quotidiani, no? Allora io spero che invece la distribuzione tenga conto dell'entusiasmo del pubblico, perché purtroppo al cinema ormai c'è questo stesso sistema di valutazione che c'è alla televisione, cioè l'audience, che è una grandissima porcata, perché almeno prima vedeva la spazzatura in televisione e diceva: però almeno al cinema mi posso scegliere il film che mi piace. Chiudiamo con due cose. Non è più così. Chiudiamo con due cose, con ricorda il sito e poi le due sale in cui è in programmazione. Volentieri, allora il sito è www.orchestradipiazzavittorio.it, chi vede il film può lasciare un commento, un blog a vostra disposizione per le critiche, i commenti, quello che volete, per sapere le altre date dell'orchestra, e il film è visibile al Greenwich e al 4 Fontane. Venerdì ci sarà un concertone gratuito dell'orchestra come evento di apertura del Roma Europa Festival davanti al Teatro Palladium. Perfetto, in bocca al lupo e a presto. Grazie, buon lavoro a tutti e buon ascolto.